Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Oh, il personaggio di oggi è un personaggio che potremmo dire mitico, qualcuno definisce quando la incontra per strada, però vorrei che prima di tutto si presentasse con il rito dell'inizio di Storielle, che è quello di fare un identikit di sé ancora prima di dire il suo nome attraverso tre possibili aggettivi che potrebbero descriverla. Ospite, ci sono tre aggettivi che secondo te potrebbero in qualche modo tratteggiare anche in modo così stilizzato? Bellissima, intelligentissima e bravissima. Ecco, quindi avete capito che il mitico e mitica c'era effettivamente con una certa opportunità. Io direi che soprattutto, ma non lo dico per essere irriverente, ha una grandissima autoironia, ma è certamente bravissima, intelligentissima e ovviamente bellissima, dipende dai punti di vista. Anna Mazzamauro. Anna, benvenuta a Storielle, Anna. Bentrovati, sì. Anche perché io mi sento una storiella rispetto alla vita, quindi va bene il titolo per me. Ma in che senso questo? Perché tu, per esempio, lo ricordo per chi ancora non dovesse saperlo, una storiella per la professione che faccio, che è quasi una fiaba, una storiella per come mi comporto, una fiaba per come sono, una fiaba per quello che ho ottenuto, nonostante tutto. Con questo senso, per me storiella non significa, non è un fatto limitativo, certo, ma è la storia, è la fiaba, è il racconto. Anna Mazzamauro, il racconto che ci ha donato, così almeno nel nostro immaginario collettivo, è quello della, dicevamo, mitica signorina Silvani, no? La vamp un po' eccentrica, molto... Molto stronza, diciamolo, no? Anche no. Pochino, ma sì. Certo, molto. Il sogno proibito di Fantozzi, insomma, ecco. Questo che ti ha resa celeberrima. Senti, ma a te, quando per identificarti immediatamente uno si riferisce appunto a questo personaggio che ti ha resa così famosa, un po' ti dà fastidio oppure sei contenta di... Ma un doppio della faccenda, perché è chiaro che io sono molto grata alla Silvani per quello che mi ha dato, perché avrei dovuto impiegare 100 anni di solitudine teatrale per avere lo stesso risultato di riconoscibilità, intendo. E quando gli attori ti dicono a me non interessa essere riconosciuto, non è vero, io mi incazzo quando non mi riconoscono, entro in istanti e non mi riconosco, me ne vado, perché allora, io ti ho scelto e tu devi scegliere me per conseguenza. Lo so che è un atteggiamento un po' esagerato, ma chi se ne frega, allora a me sta bene così. E quindi delle volte però la detestavo perché mi ha inclischettato, siccome io ho sempre odiato nella mia vita i cliché, le cose, si dice che non è vero niente, io sono come sono, tu mi devi considerare nel momento in cui io agisco, in cui parlo, in cui recito e non per il ricordo che hai di me. Allora detesto il cliché, perché il cliché è un ricordo che tu hai di una cosa, che ricordi con esattezza, che diventa quello, e io non sono diventata la Silvani, l'ho recitato come avrei interpretato come personaggio, come avrei interpretato Cristina di Svezia o Maria Stuarda, capito? Così come ho fatto tanti altri personaggi in teatro. Certo, perché se no è limitante, si è troppo inchiodati, certo, a quel personaggio, sì, e tutte le altre cose. Però sono le persone che sono limitate nel darmi questo limitante, perché quasi sempre è gente che non va a teatro, quindi limita moltissimo. Chi non va a teatro, secondo me, è come chi non legge un libro, è molto limitato. Andare a teatro apre veramente la mente come lo apre un libro. Certo, non tutto il modo di fare teatro può avere questa indicazione, però in genere quelli che mi ritengono e mi conoscono solo per aver fatto la Cine Silvani sono limitati perché non vanno a teatro, e chi non va a teatro è limitato. Anche perché c'è la pubblicità Progresso che dice il teatro allunga la vita, no? Ma Anna Mazzamauro, bisogna poi tra l'altro dire che la tua carriera negli anni 60 è proprio iniziata col teatro, a parte che è una trentennale, quarantennale esperienza di teatro, ma tu eri proprio in quegli anni nata un po' come impresaria di te stessa, che era un essere molto all'avanguardia in quel momento. Sei formata bene. Sì, avevi creato sono contenta. Un piccolo teatro al centro di Roma che si chiamava Il Carlino, no? Brava, sì. E lì hanno cominciato a muovere anche i primi passi Elio Pandolfi, il grande Bruno Lauzi, poi c'erano i Vianello. No, quali, sì, loro avevano il doppio della mia età, non muovevano i primi passi insieme a me. Ero io che ero molto giovane e che per poter uscire avevo bisogno di una ditta, e quindi ho chiamato Pandolfi, ho chiamato Lauzi, ho chiamato i Vianella, sì, ho chiamato le persone che per far muovere a me i primi passi mi servivano, tra virgolette, mi aiutavano, ecco, più che mi servivano. Tu sei nata a Roma, si può dire l'anno o sorvoliamo? Ma perché? Mi piace, hai detto intelligentissima. Motivo, quindi. Se tu mi spieghi il motivo vero e autentico, per cui hai bisogno di sapere la data di nascita, allora io te la dico, ma mi devi dare una ragione veramente valida. Allora, vediamo una se la curiosità femminile. Vediamo se la ragione è valida. Per poter dire dentro di sé io sono più giovane, no. Come se questa fosse una virtù. No, allora non la diciamo, ma non era quello il motivo era quando c'è un personaggio qui a Storielle, un po' anche avere, come si può dire, i punti cardini della storia di vita di una persona, però non è assolutamente senz'altro. No, non è necessario, no. I punti cardini credo che siano quelli per cui tu hai cominciato ad elencare tutte le cose che io ho fatto, sono quelli i miei punti di riferimento, non certo l'età. Io potrei essere nata nel 1870, augurarmi lunga vita, capito? Senti, ma nella tua vita, a proposito di punti di riferimento, chi sono stati i veri punti di riferimento? Non so, i tuoi genitori, chi ti ha un po' forgiata per quella che poi sei diventata? Ma nessuno, perché io credo di essere nata con questa deformazione fisica e mentale di essere attrice, non di voler diventare. L'ho sempre saputo fin da piccola, quindi i miei hanno tentato di esorcizzare questo demone dostoevskiano del teatro mandandomi a scuola delle orrende monache che mi hanno seguito fino al liceo. Ho rischiato l'università cattolica, sono andata invece alla Sapienza, tutto qua. Senti, ma ritornando appunto al tuo percorso, tu hai col cinema iniziato con, non con Fantozzi, era un altro film in realtà, no? Che, col quale... Ah beh, ma soltanto perché il mio primo marito faceva lo scenografo del film, quindi pronto c'è una certa Giuliana per te. Una stronzata paurosa, però però l'ho fatto soltanto perché erano i primi anni, il primo anno di matrimonio mi pare che fosse, e quindi ero andata a trovare mio marito e Franciosa, che era il regista del film, mi ha chiesto: vuoi fare una piccola parte? Ma se mi pagate, sì, volentieri. Mi hanno pagato, l'ho fatta, ma era una stronzata. l'insegnante di lettere, figurati. Vabbè, insomma, comunque gli inizi. Storielle. Storiacce. Sempre Roberta Giordano con voi, ascoltatrici e ascoltatori, e sempre in collegamento mentre sta guidando, perché insomma raggiunge i vari luoghi per la sua tournée, Anna Mazzamauro. Anna, tra l'altro in questo momento stai portando in giro Caro Bugiardo, no? Sì, non è che lo prendo per il culo, lo porto in giro nel senso che lo porto. Lo conduci qua e là nei teatri, sempre con Corrado Tedeschi. Esatto, siamo in due protagonisti della stessa cosa. E quindi sono in tournée. E quando, è vero che quando Salce ti ha chiamato, Luciano Salce, grande regista, ti ha chiamato per il primo Fantozzi, dice che ti ha guardata e ha detto: Dio, Anna, perché stavi rivestita piuttosto bene, ti ricordavo più brutta. È vero che hai detto una cosa del genere, Salce? Sì, certo, ma questo si vede che tu o hai visto il mio spettacolo Signorina Silvani, signora, prego, perché è un racconto che io faccio durante lo spettacolo, che facevo fino all'altro anno, quando facevo appunto questo spettacolo, sì. E raccontavo di questo, del fatto che il mio agente, che era disoccupato per colpa mia, finalmente mi ha telefonato la mattina dicendomi: Anna, corri, Fantozzi, Villaggio, Salce, protagonista. E io mi sono bardata come una protagonista in maniera orrenda. Avevo una scamiciata rossa di pelle orrenda, le calze a reti orrende, i tacchi orrendi, un cappello orrendo. Ero veramente orrendo. Impresentabile, insomma. Sì, e ho aperto la porta dello studio di Salce, ho aperto anche le mie braccia, spalancandole, dicendo a Luciano, perché con lui avevo già lavorato in teatro, ho fatto L'uovo di Massù con Albert Tanzi. E mi ha detto: ecco la protagonista del tuo film. Lui mi ha guardato e mi ha detto: scusa, ma ti ricordavo più brutta. A quel punto non l'hai schiaffeggiato tu, però? al tempo, Anna? No, no, no, no, assolutamente. Senti, ma tu hai lavorato anche con Oreste Lionello, Anna? Sì, 4 anni, infatti. Tu come lo ricordi, Lionello? Ma è stata la mia accademia. Cioè, è difficile dire, perché pare che bisogna sempre parlare bene delle dici, persone, sì, che non ci, sono, non ci sono più. Per carità, di Oreste non potrei parlare male, ma soprattutto lo ricordo non tanto come amico quanto per le sue virtù professionali. È stata la mia accademia, perché io non ho fatto accademia e Oreste, che era abbastanza più grande di me, non mi ha insegnato niente, perché io non voglio che gli altri mi insegnino, sono io che voglio apprendere, diverso. E ho appreso da lui i tempi che forse avevo dentro di me, comici, chiamiamole così, però li ho esercitati insieme a lui in maniera eclatante, devo dire. Ed era l'epoca in cui eravamo io, lui e Funari, per 4 anni, in un cabaret romano. E tu hai fatto tanto cabaret, infatti, no? Ma sì, ma sai, era una parola che andava di moda. In Italia in realtà il cabaret non è mai esistito, è esistita la piccola rivista per comodità, ma non certo il cabaret è quello con K, è quello tedesco, Carl Valentin, quello è il cabaret. Noi facciamo le stesse cose che facevano nell'avanspettacolo, spacciandole per rivista importante, per cabaret intellettuale, ma che cosa? Ma dove? Senti, è questo quello che ha rappresentato comunque Lionello, ma tu, probabilmente una persona che non so se hai conosciuto direttamente, Anna Mazzamauro, poi ce lo direi tu, però che ti ha dato evidentemente tanto come immagine, come modello, è Anna Magnani. Tu hai fatto anche lo spettacolo Raccontare Nannarella. Che ho scritto io, e quindi non certo per imitazione io ho scritto quello spettacolo, perché secondo me ognuno ha la sua storia, quindi io non volevo imitare nessuno. Diciamo che era uno spettacolo dove entravo e uscivo dal personaggio raccontandolo, non confrontandomi, ma raccontando semplicemente Anna Magnani, con la delicatezza di chi non voglia scrivere una biografia. Io detesto le biografie, perché detesto l'arroganza e la voglia e la presunzione delle persone di raccontare come è un'altra persona. Nessuno può sapere mai, mai, mai com'è veramente quella persona. Infatti è un tentativo un po' approssimativo, no? Sempre quello delle biografie. Certo, ma diciamo che io ho raccontato con delicatezza, mi sono infilata in quella sottoveste nera con la quale la ricordiamo, ma tra le pieghe, ripeto, ma con molta delicatezza, con molta non ritrosia, con la voglia di conoscerla, di raccontarla, ma con il rispetto grande e enorme dei suoi grandi sentimenti, che in una vita vissuta a punti esclamativi. E se tu dovessi scrivere una tua autobiografia, Anna Mazzamauro, delle cose che non possono assolutamente mancare, 2 o 3 cose in questa autobiografia che tutti devono sapere, che sono quelle che tu senti più tue? Il mio amore viscerale per il teatro, il mio amore così grande che mi fa commettere sbagli, mi fa fare cose giuste, mi esercita nella vita, mi conduce, mi allarga la mente, mi fa leggere di più, mi fa affrontare argomenti e personaggi e città. Cioè, probabilmente io starei a casa mia a quest'ora a bere il tè a Roma, e invece sono a Mantova, è una città bellissima dove incontro sguardi di persone che mi riconoscono, io sorrido e mi viene voglia di abbracciarli, così come l'altro ieri stavo in un'altra città e vedo cose che mi allargano la mente, ma non perché io sia particolarmente attenta a queste cose, ma perché già il vedere e osservare cose diverse ti allarga la mente, invece di vedere sempre casa tua. Ma visto che tu hai fatto una galleria molto ampia di personaggi femminili, a parte appunto la signorina Silvani, che tipo di rapporto hai con le donne? Ma quelle intelligenti, io non parlo mai, io non sono una femminista né antelitram, cioè credo che ognuno abbia il suo tempo, il suo spazio, se lo conquista, a prescindere dall'essere donna o dall'essere uomo, non ho mai fatto distinzione, tant'è vero che questa polemica del cavolo di questi giorni sull'omosessualità mi dà semplicemente fastidio, perché è ghettizzante già la parola, e tu sei un essere umano, poi se sei omosessuale, se sei etero, se sei come cavolo ti pare, per me sei un essere umano, io incontro l'essere umano, non ho bisogno di definirlo, questo mi dà fastidio, è un'etichetta, è un confronto, guai nella vita, capito? Quindi sono inutili queste polemiche, sono da merce, da quattro soldi, io incontro una creatura, se mi piace l'abbraccio. Allora, dicevo, non ho un rapporto con le donne o con gli uomini. Se una donna è intelligente, io l'abbraccio come abbraccio un uomo intelligente. Se una donna stupida, la allontano fuori dalla mia vita come farei con un uomo stupido. Tutto qua. Che donna è tua figlia, Guendalina? Intanto pensa, lei è veramente bellissima, io ogni volta che la incontro dico ma come ho fatto, il padre è tuttora bello, qui gli ha dato una salvata da niente, però mi piace moltissimo perché è una donna intelligente e quindi mi piace per questo, la frequento per questo, altrimenti pur non, frequenterei figlia, manco non la frequenterei se fosse stupida, fortunatamente è molto intelligente, io sono molto fiera di questa. Bene, poi Anna Mazzanauro, tu hai fatto appunto vari film, perché infatti oltre una ventina vedevo, hai fatto diversi programmi TV, però alla fine ci dicevi la tua grande passione è rimasta al teatro. È vero che sei stata forse l'unica donna al mondo a interpretare il Cyrano de Bergerac? Sì, ecco, anche questo mi rende molto fiera, perché non era, come vedi, questo si ricollega al discorso della non differenza tra uomo, donna, omosessuale, queste cazzate, perché Cyrano è un diverso, Cyrano ama, soffre, dà di spada come potrebbe darlo Cyrano, amare, soffrire, morire, qualsiasi persona lo può fare, no? Se è come Cyrano, casualmente un uomo, ma io ho voluto esaltare la diversità in lui, la atipicità soprattutto, quella che fa soffrire nella vita e che ha fatto soffrire anche me quando ancora andavo incontro agli altri a braccia aperte, di quelli che non fanno distinzioni, perché io non le facevo. Poi quando ho capito che uno è brutto, l'altro è bello, l'altro è discreto, l'altro ha le gambe storte, allora in un momento, allora viva la tipicità, perché la tipicità e la diversità ti spingono a cercare al di fuori di te qualcosa in più, a leggere un libro in più, a osservare qualcosa in più che magari altri nella quotidianità non annotano neanche. E questo anche nelle persone succede. Che cos'è che ti fa più indignare, Anna Mazzanauro? Intanto la mancanza di intelligenza, però penso subito, ma non è colpa loro se sono nati stupidi, perché è un fatto genetico, così come nascere biondi, belli, bruni, sì, belli o brutti, certo. Però mi dà fastidio chi mente. Non chi dice le bugie, perché chi dice le bugie è piccolino, ma chi mente. Chi inganna, quindi. Sì, io tento sempre, poi anch'io tento, può darsi che non ci riesca qualche volta, di dire sempre la verità. Può darsi che delle volte io sbagli nel dire queste cose, nel fare queste affermazioni che sono sempre ghettizzanti anche queste. No, io non posso dire, io dico sempre la verità, ma non è vero. Delle volte inconsciamente si dicono delle bugie per ripararsi dietro qualcosa, perché si è un po' vigliacchi, per tutti i difetti che abbiamo tutti quanti. L'importante è però riconoscere questi difetti. Ecco, questa è una cosa di cui vado fiero. Era il fatto di riconoscere tutti i difetti che ho. Uno di questi difetti qual è, Anna Mazzanauro? Nel non essere molto, non accetto molto la stupidità degli altri, non soffro di buonismo, quindi non dico poverino e scemo, no, allora statene per i cazzi tuoi, voglio dire, non disturbare me se sei scemo. Questa che senti? È la lampada, la lampada di Aladino. Se tu dovessi chiedere, non so, se dovessi esprimere un desiderio ancora per te, cosa chiederesti? Ne ho tanti, non basterebbe la lampada di Aladino, ci vorrebbe lei con tutte le sue lampade per tutti i desideri che io ho. Sai, è banale dire che mia figlia abbia grande salute, che io vivo. Io sono Highlander però, questo sì, vorrei, ecco, forse un desiderio grande sarebbe quello di tramutarmi in Highlander, perché mi piace talmente vivere che detesto il concetto di morte, non mi va, non capisco perché, essendo un'atea non capisco perché devo morire, cioè chi lo sta scritto, perché? Allora perché sono un'atea, capito? Però ci vorrebbe un'altra trasmissione per raccontarci. E magari allora su questo ci risentiamo. Grazie intanto ad Anna Mazzamauro. Ciao Anna. Grazie a te, grazie a tutti per avermi ascoltato. Ciao Anna.